Cari amici, dopo la settimana della preghiera per l'unità dei cristiani, ritorniamo oggi alle grandi figure di Sant'Agostino. Il mio caro predecessore Papa Giovanni Paolo II gli ha dedicato nel 1986, cioè nel sedicesimo centenario della sua conversione, un lungo e denso documento. La lettera apostolica Augustinum Hipponensem. Il Papa stesso vuole definire questo testo un ringraziamento a Dio per il dono fatto alla Chiesa e per essa l'umanità intera con quella mirabile conversione. Sul tema della conversione vorrei tornare nel prossimo incontro, l'ultimo dedicato a Sant'Agostino. È un tema fondamentale non solo per la sua vita, ma per noi stessi. Nel Vangelo della domenica scorsa il Signore stesso ha riassunto la sua predicazione nella parola «convertitevi». E seguendo il cammino di Sant'Agostino potremmo meditare che cos'è questa conversione. È una cosa definitiva, decisiva. Ma la decisione fondamentale deve svilupparsi, deve realizzarsi in tutta la nostra vita. La catechesi oggi invece è dedicata al tema fede e ragione, che è un tema determinante o il tema determinante per la biografia di Sant'Agostino. Da bambino Sant'Agostino aveva imparato dalla sua madre Monica la fede cattolica. Ma da adolescente ha abbandonato questa fede perché non poteva più vedere la sua ragionevolezza e non voleva esercitare una religione che non era anche per lui espressione della sua ragione, cioè verità. La sua sete di verità era radicale, e lo ha guidato quindi ad allontanarsi dalla fede cattolica, ma era così radicale che non poteva mai accontentarsi con filosofie che non arrivano alla verità stessa, che non arrivano fino a Dio, e a un Dio che non è soltanto una ultima ipotesi cosmologica, ma che è un vero Dio, un Dio che dà vita e entra nella nostra vita. Così tutto l'itinerario intellettuale e spirituale di Sant'Agostino rappresenta un modello anche oggi valido nel rapporto tra fede e ragione, tema non solo per uomini credenti, per ogni uomo che cerca la verità, tema centrale per l'equilibrio e il destino di ogni essere umano. Queste due dimensioni, fede e ragione, non sono da separare né da contrapporre, ma piuttosto devono sempre andare insieme. Come ha scritto Agostino stesso, dopo la sua conversione, fede e ragione, dice Contra Academicos, sono le due forze che ci portano a conoscere. E a questo proposito rimangono giustamente celebri le due formule agostiniane che esprimono questa coerente sintesi tra fede e ragione. Crede ut intelligas, credi per comprendere, il credere apre la strada per entrare nelle porte della verità, ma anche inseparabilmente intelligi ut credas, comprendi, vedi verità per poter trovare Dio e credere. Le due affermazioni di Agostino esprimono con efficace immediatezza e con altrettanta profondità il sintesi di questo problema, la sintesi nella quale la Chiesa Cattolica vede espressa il proprio cammino. Storicamente questa sintesi sta formandosi prima ancora della venuta di Cristo, nell'incontro tra fede ebraica e pensiero greco nel giudaismo ellenistico, Successivamente nella storia questa sintesi è stata ripresa e sviluppata da molti pensatori cristiani. L'armonia tra fede e ragione significa soprattutto che Dio non è lontano dalla nostra ragione e dalla nostra vita, è vicino ad ogni essere umano, vicino al nostro cuore e vicino alla nostra ragione, se realmente ci mettiamo in via. Proprio questa vicinanza di Dio all'uomo fu avvertito con straordinaria intensità da Agostino. La presenza di Dio nell'uomo profonda e nello stesso tempo misteriosa può essere riconosciuta e scoperta nel nostro proprio intimo. Non andare fuori, afferma Agostino, ma torna in te stesso. Nell'uomo interiore abita la verità e se troverai che la tua natura è mutabile, trascendi te stesso. Ma ricordati quando trascendi te stesso che tu trascendi un'anima che ragiona. Tendi dunque là dove si accende la luce della ragione. Proprio come egli stesso sottolinea con una affermazione famosissima all'inizio delle Confessioni della sua autobiografia spirituale, ci hai fatti per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te. La lontananza di Dio equivale allora alla lontananza da se stessi, scrive nelle Confessioni rivolgendosi a Dio: tu infatti ero all'interno di me più del mio intimo e più in alto della mia parte più alta, interior mio, intimo mio e superior sumo mio, tanto che, aggiunge, tu eri davanti a me e io invece mi ero allontanato da me stesso e non mi ritrovavo e ancora meno ritrovavo te. Proprio perché Agostino ha vissuto in prima persona questo itinerare intellettuale e spirituale, ha saputo renderlo nelle sue opere con tanta immediatezza, profondità e sapienza, riconoscendo in due altri celebri passi delle Confessioni che l'uomo è un grande enigma, è un grande abisso, enigma e abisso che solo Cristo illumina e salva. Importante, questo è un uomo che è lontano di Dio, anche lontano da sé, è alienato da se stesso e può ritrovarsi se stesso solo incontrandosi con Dio, così arriva anche a sé, al suo vero io, alla sua vera identità. L'essere umano, sottolinea poi Agostino nel De Civitate Dei, è sociale per natura, ma è antisociale per vizio. E lo vediamo. E questo uomo sociale, creato da Dio, ma antisociale, fatto nella sua storia, questo uomo è salvato da Cristo, unico mediatore tra Dio e l'umanità, via universale della libertà e della salvezza, come ha ripetuto Papa Giovanni Paolo II. Proprio in questo documento menzionato dice: al di fuori di questa via, che mai è mancata al genere umano, nessuno è stato mai liberato, nessuno viene liberato, nessuno sarà liberato. In quanto unico mediatore della salvezza, Cristo è capo della Chiesa e a essa è misticamente unito al punto che Agostino può affermare: siamo diventati Cristo. Infatti, se Egli è il capo, noi le sue membra, l'uomo totale è Lui e noi. Popolo di Dio e casa di Dio, la Chiesa nella visione agostiniana è dunque legata strettamente al concetto di corpo di Cristo, fondata sulla rilettura cristologica dell'Antico Testamento e sulla vita sacramentale centrata sull'Eucaristia, nella quale il Signore ci dà il suo corpo e ci trasforma in suo corpo. È allora fondamentale che la Chiesa, popolo di Cristo, in senso cristologico e non in senso sociologico, cioè non da noi stessi, ma perché incorporati nell'Eucaristia in Lui e assimilato a Lui, assimilando alla Sua parola. Dico che questo popolo di Dio deve essere sempre inserita in Cristo, il quale, dice Agostino, prega per noi. Prega in noi e pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote. Prega in noi come nostro capo e pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo pertanto in Lui la nostra voce e in noi la sua. Nella conclusione della lettera apostolica Augustinum Hipponensem, Papa Giovanni Paolo II ha voluto chiedere allo stesso santo che cosa abbia da dire agli uomini di oggi. E risponde innanzitutto con le parole che Agostino affidò a una lettera dettata poco dopo la sua conversione, dove dice il convertito: «A me sembra che si debbano ricondurre gli uomini alla speranza di trovare la verità», come attuale questa parola, quella verità che è Cristo, Dio vero, al quale è rivolta una delle preghiere più belle e più famose delle Confessiones: «Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato». Ed ecco, tu ero dentro e io fuori, e lì ti cercavo, e nelle bellezze che hai crefato mi accettavo, deforme. Eri con me, ma io non ero con te. Da te mi tenevano lontano quelle cose che se non fossero in te non esisterebbero. Hai chiamato e hai gridato, e hai rotto la mia sordità, hai brillato, hai mostrato il tuo splendore e hai dissipato la mia cecità, hai sparso il tuo profumo e ho respirato, e aspiro a te, ho gustato e ho fame e sete, mi hai toccato e mi sono infiammato nella tua pace. Ecco, Agostino ha incontrato Dio e durante tutta la sua vita ne ha fatto esperienza, al punto che questa realtà, che è innanzitutto incontro con una persona, Gesù, ha cambiato la sua vita, come cambia quella di quanti, donne e uomini, in ogni tempo, che hanno la grazia di incontrarlo, e preghiamo che il Signore ci dia questa grazia e di trovare così la sua pace. Grazie.